Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati, il mondo della scuola con tante storie, esperienze da raccontare. Mirko Cavallini studia, di Daici in regia. Oggi parliamo di ragazzi e di mezzi di comunicazione grazie all'AIART, la cui referente per la zona di San Donà di Piave è Sandra Costa, che è anche insegnante all'Istituto Comprensivo di Amicis di Eraclea. Bentornata Sandra. Buongiorno. Dunque, intanto due parole le ripetiamo sull'AIART, sull'associazione dei radiotelespettatori, giusto? Sì, è nata proprio così, pochi anni dopo che è nata la televisione, e all'inizio si occupava principalmente di televisione, sia per promuovere una buona televisione, che infatti era nata con un grande scopo anche educativo inizialmente, e dopo è stato un pungolo per quanto riguarda tutta la cattiva televisione e programmazione che abbiamo visto negli anni, quindi come critica, ma senza fermarsi alla critica, anche agendo attraverso la formazione degli insegnanti, formazione degli genitori, con progetti poi dentro le scuole, perché alla fine le finalità sono le 3C rispetto ai media: creare consapevolezza, competenza e capacità critica. Queste sono le tre grandi finalità dei nostri progetti. In più, lavorare in rete, creare dei momenti di riflessione, di dibattito, con convegni in rete, naturalmente con le altre associazioni che si occupano di educazione. Noi lavoriamo molto con l'AGE, con l'UCIM, lavoriamo con il Centro di Documentazione Aldo Mori per quanto riguarda le giornate della storia, e con associazioni anche che si interessano, ad esempio, che lavorano proprio sulla persona, quindi anche con l'ACAT per quanto riguarda le dipendenze da alcol, da gioco, che alla fine l'AIART sta facendo anche una grande battaglia su questo versante, insomma. E gli aspetti di cui tener conto sono molti, e proprio partendo dalla scuola: questo è un istituto autocomprensivo, quindi elementari e medie, giusto? Quante classi sono? Sì, noi coinvolti in questo progetto sono 22 classi, e quindi abbiamo veramente un numero importante di alunni, perché il progetto si chiama Ti consiglio di partecipare, e perché il comune quest'anno di Eraclea ha promosso il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per il nostro comune. Il nostro istituto comprensivo ha aderito e l'AIART è entrata come grande supporto dal punto di vista tecnologico delle nuove tecnologie, proprio perché pensiamo che la cittadinanza oggi sia soprattutto anche cittadinanza digitale. E cosa significa? Significa che ci si rapporta non solo con la realtà partecipativa, ma anche con le nuove forme di partecipazione che sono date dai mezzi di comunicazione quali la rete. Ecco che l'AIART è entrata con l'istituzione di un sito, e proprio l'allestimento del sito, che poi alla fine è stato creato dall'adulto, ma quello che viene postato, scritto, è tutto fatto dai ragazzi, proprio perché deve essere scritto con le loro parole, anche con la loro voce. Ci sono alcuni post più significativi registrati direttamente dai ragazzi, e proprio perché deve essere la loro voce. Abbiamo fatto un bel lavoro sul fatto che la Carta dei diritti, che l'articolo 12 dà il diritto di espressione, significa anche potersi esprimere adesso anche con i nuovi mezzi di comunicazione, ma con una responsabilità che è notevole, nel senso che quello che io posto rimane scritto, è indelebile, non c'è in rete diritto d'oblio. Quindi devo entrare con competenza, quindi sapere quello che vado, avere un obiettivo, sapere come scrivo, ma anche dare una forma alla scrittura, quindi anche a livello curricolare. Hanno lavorato bene sul testo argomentativo, sulla forma del diario, ma anche sull'arricchimento lessicale. Nel sito abbiamo proprio tanti glossari, perché noi abbiamo bisogno di cittadini che hanno tante parole e che si capiscono in mezzo al mondo di parole. Ecco, la interrompo Sandra per dire, questi sono ragazzi di quarta, quinta elementare, prima e seconda media, quindi sotto i 13 anni, quindi non iscrivibili a Facebook, perché sotto i 13 anni non ci si può iscrivere. Noi non sappiamo se questi lo siano comunque tramite falsificando i dati, però diciamo questa è la realtà normativa. Diceva, loro stessi hanno contribuito, allora il sito, che non abbiamo detto, è CCR Eraclea, CCR sta per Consiglio Comunale Ragazzi, ccreraclea.provincia.venezia.it, e questo è un contributo audio che si trova proprio nel sito. I bambini costituiscono gran parte dell'umanità, della popolazione, della nazione, degli abitanti e dei concittadini. Sono i nostri compagni di sempre, ci sono stati, ci saranno e ci sono. Quest'anno il nostro istituto ha aderito alla proposta dell'amministrazione comunale per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, CCRR. Organo di rappresentanza degli alunni e delle alunne appartenenti alle classi quarta e quinta della scuola primaria e prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Il CCR ha il compito di dare voce alle esigenze dei ragazzi presso l'ente locale. Sarà la sede dove noi ragazzi e ragazze partecipiamo attivamente. Sarà nostro impegno segnalare i bisogni e i problemi del territorio che raccogliamo, elaborare proposte di miglioramento, valutare, argomentare, negoziare e prendere decisioni sulle istanze da promuovere e sui progetti da realizzare. E questa dunque è un'autopresentazione dei ragazzi, le elezioni proprio in questi giorni, quindi immagino che proprio sul sito poi troverete i risultati. Questa è una forma diretta, insomma, più diretta di così e non si può. Sì, sì, abbiamo anche l'ufficio stampa, che allora è rappresentato dai ragazzini di terza media. Abbiamo un bel gruppo di 22 ragazzi volontari, hanno aderito volontariamente, e è il venerdì pomeriggio, non tutti i venerdì naturalmente, ma quando hanno fatto un piccolo corso di formazione, ad esempio molto bello su Audacity, su Movie Maker, proprio per imparare a usare le tecnologie che dovranno utilizzare come giornalisti. Abbiamo poi adesso il corso di grammatica delle immagini e delle immagini in movimento, quindi avere anche la competenza di come far parlare un'immagine. Se faccio un primissimo piano sul candidato, so che voglio descrivere le sue emozioni. Se faccio un campo totale, voglio raccontare una scena, quindi anche queste sono delle forme che di cui è importante appropriarsi. Ecco, essere coscienti del linguaggio. Su questo torniamo, da questo ripartiamo tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Oye, come va? Ho smesso quel bel vento. Considera che in me è primavera da mezz'ora. Il cielo ha una porta sola. Hai smesso di far male ai tuoi fragili pensieri. Hai cominciato a fare pace con te stessa tu. E vivi tutto sempre. Per sentire piaci. Tu mi dici, non sono in grado di amarti. Lì che tempo fa, tu sarai già al mare. Prenditi il tuo tempo e non sentirti in colpa mai. La volontà decide ancora, ancora. Tu mi piaci, tu mi dici, il cielo ha una porta sola. Tu mi piaci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Eccoci qui ancora insieme, puntata comunicativa dal mondo della scuola, perché insieme a Sandra Costa, che è dell'AIART, Associazione dei Radiotelespettatori, ma è anche insegnante all'Istituto Comprensivo di Amicis di Eraclea, stiamo raccontando questa novità del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, appunto del Comune di Eraclea. Nell'istituto comprensivo 22 classi coinvolte dalla quarta elementare alla seconda media, istruendo e rendendo coscienti i ragazzi proprio dei linguaggi, dei vari linguaggi dei mezzi di comunicazione, ovviamente la TV, ma non solo, perché anche internet, i manifesti, i testi, le parole, la musica, c'è dentro tutto. Sì, sì, infatti quello che è importante in questo percorso è stato quello di dire, beh, formiamo perché ci sia la consapevolezza di come si usano i linguaggi, di come parlano queste nuove tecnologie, ma anche le vecchie tecnologie che vanno a convogliare nelle nuove. Nello stesso tempo, da parte invece dei ragazzi più piccoli, che appunto si sono messi in gioco come candidati, ma anche le classi che hanno redatto i programmi. Rispetto a questi, sempre nel sito sono stati messi dei criteri che dovevano seguire per redigere un programma. Quindi le idee dovevano essere fattibili in 2 anni, dovevano essere realizzabili dai ragazzi, quindi chiedendo anche aiuto agli adulti, però con loro protagonisti nella progettazione e anche nell'attuazione di queste loro proposte, e dovevano essere idee intelligenti, e intendendo per intelligenti che fossero appunto nel merito e nel metodo, che avessero una forma chiara, che coinvolgesse un numero ampio di persone, quindi che facessero il bene comune, ecco, questo dovevano essere, che fossero anche idee inclusive. E abbiamo dei contenitori. I contenitori sono quindi la legalità, ad esempio, sono lo sport, il tempo libero, le opportunità, sono le tradizioni, e dentro questi contenitori, strade sicure, sono venute fuori idee veramente interessanti. Sono un po' gli assessorati o i ministeri, no? Sì, sì, e ci saranno poi di questi contenitori, avranno le commissioni, lavoreranno divisi per commissione, e ci sarà un assessore per ogni commissione, ma avendo la possibilità del sito, avendo la possibilità dell'ufficio comunicazione che tiene i contatti, e quindi quello che viene fatto viene anche postato, c'è la possibilità anche da chi non viene eletto di seguire attivamente quello che viene fatto, dare anche dei suggerimenti. Una cosa anche molto, molto bella che è venuta è stato proprio un titolo di un programma che mi ha colpito in particolar modo, che si chiama Parole in 3D. Perché Parole in 3D? Hanno scelto questo dopo che c'è stato proprio un gran lavoro su questo, cosa significava redigere un programma, no? Dare alle parole la terza dimensione, che è la profondità dell'impegno, che è la profondità del contenuto, che è poi avere anche gambe, braccia, mani, testa, per andare anche a riflettere poi su quello che abbiamo messo in pratica, che abbiamo creato o che forse è ancora migliorabile. E quando hanno presentato questo, il loro programma era scritto su, era su bottiglie di plastica, hanno fatto le etichette con, proprio perché la bottiglia ha questa profondità, ha il contenuto. E poi hanno dimostrato anche in sede di presentazione, facendo vedere che la carta, ad esempio, dei diritti dei bambini è bidimensionale, non sta in piedi da sola, e quindi bisogna dare questa tridimensionalità, che è l'impegno concreto. E questa è stata una grande, hanno lavorato molto anche sulle metafore, e c'è stato un programma, ad esempio, che è stato invece presentato da un candidato lavorando sull'analisi logica, no? L'analisi logica che ha il predicato nominale e ha il predicato verbale. Allora, chi è il che cos'è il CCR, il predicato nominale? Faccio una frase. Che cosa faccio io nel consiglio comunale? Questo è il predicato verbale. Di fatto loro nella grammatica, che è il lavoro di tutti i giorni, certo, anche noioso, hanno trovato che questo predicato, che fanno anche fatica a digerire, no? E che confondono, di fatto è vita, perché è la mia identità, chi sono, ma anche che cosa faccio. E queste sono le due dimensioni con cui devono agire anche nel consiglio comunale. Ecco, sul sito ccrraclea.provincia.venezia.it ci sono e sono molto colorati anche i manifesti. Adesso con internet le campagne elettorali non vengono più fatte, almeno quelle dei grandi, con i manifesti che riempiono le città, perché sono costosi. Su internet si può fare tutto gratuitamente. Loro invece sono tornati, pennarelli, cartelloni, eccetera, e vedo che i lavori sono stati notevoli, no? Sì, infatti, e anche il fatto di dover rappresentare le idee per i bambini, comunque il fatto di passare anche per questo linguaggio grafico significa fare di un'idea, dare una forma, no? Darne, fare in modo che a livello anche comunicativo sia efficace. Quindi non bastano per i bambini le parole, hanno proprio bisogno di far vedere, e questo penso sia un grande insegnamento anche per gli adulti, no? Ecco, anche sulla composizione dei manifesti voi li avete aiutati, perché chiaramente il testo, le parole e quello che dicono le parole sono importanti, ma anche un'immagine più accattivante può aiutare, magari porta più voti quella, come succede per i grandi. Sì, certamente anche quello, il fatto della forma, che ogni immagine parli per forma, significato, funzione, è stata un'altra delle cose che abbiamo imparato, sì, e quindi abbiamo dato ai bambini e di cui si sono appropriati. E naturalmente dopo dovevano mettersi in gioco in tutti i sensi, perché c'è anche il bambino che non ce la fa a esprimersi con il disegno, come qualcun altro che magari si esprime molto bene con il disegno, ma non è detto che sia il bambino che ha l'idea più ricca e più completa, insomma. Quindi la possibilità poi di mettersi in gioco anche con le parole, con le dimostrazioni, facendo anche una presentazione accattivante, è stato comunque prendere consapevolezza del proprio impegno, perché questo presentarsi significa un po' mettersi in gioco di fronte agli altri, ma significa anche rendersi responsabili. E qua mi collego a una bella festa che è stata fatta a scuola, sempre durante il percorso, con i ragazzi di quinta, la festa classica, e un professore di filosofia, loro erano vestiti da greci con un lenzuolo, una mamma ha fatto, e vestiti da greci loro hanno ascoltato questa lezione di filosofia su cui è stato illustrato Clistene, no? Clistene è riuscito a guardare l'Attica, che era divisa in tritti e per censo, quindi in maniera non troppo equa, è riuscito a vederla in maniera diversa, immaginarsi un'organizzazione diversa. Quelle trittie le ha divise in demi, e da qui il nome poi democrazia. Chi conta nel demo? Conta il cittadino, e il cittadino è colui che arriva alle assemblee, all'agorà, deve partecipare, può partecipare, arriva preparato, e chi non arriva preparato è colui che è il cittadino inutile, perché non ha portato il suo contributo. Questo è stato anche una grande presa di coscienza, no? Sul fatto di dire: io devo arrivare a scuola preparato in quel momento, io mi alleno ad essere quel cittadino utile, devo arrivare all'associazione, devo arrivare con già delle idee, delle proposte, quindi imparare ad essere costruttivi. Questa, esatto, è una grande dimensione, ecco. Ultima pausa, ancora insieme tra poco con questa bella esperienza scolastica. Dal mondo della scuola. Some information. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola insieme a Sandra Costa dell'AIART che, insieme ad altri colleghi, insegnanti all'Istituto Comprensivo di Amicis di Eraclea, ha contribuito a realizzare il sito del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Eraclea che è in fase di costituzione proprio in questi giorni con le elezioni. Tra le altre iniziative in cui avete coinvolto i ragazzi c'è lo sguardo e una lettura critica anche ai mezzi di comunicazione tradizionali, insomma, che comunque sono predominanti, credo, a cominciare dalla televisione e dai telegiornali. Sì, abbiamo fatto sempre con i ragazzini delle quinte, abbiamo fatto l'esperienza di leggere il TG con la comparazione del quotidiano e anche qui abbiamo fatto un laboratorio proprio che si intitolava La scoperta della fabbrica delle notizie e settimanalmente è stato analizzato, smontato un po' alla volta un telegiornale. Adesso si va molto meglio perché in rete riusciamo a reperire ad esempio le scalette per fare la comparazione dei vari TG e abbiamo proprio modo di riuscire a fare il lavoro molto più velocemente di quanto si faceva in passato. E sono stati creati dei fascicoletti mano a mano con delle schede che i ragazzi comunque poi dovevano svolgere in famiglia con i genitori perché il TG si guarda in famiglia. E prima di andare poi come momento conclusivo agli studi di Venezia della RAI a Palazzo Labia dove siamo stati accolti e accompagnati a vedere proprio le stanze dove si svolge, no? Dove si produce e abbiamo fatto anche una simulazione di telegiornale in classe e poi ognuno ha presentato la propria parte su cui si era più preparato, ha preparato la propria lezione, quindi diciamo che sono arrivati veramente ben attrezzati anche a vedere gli studi del TG e lì sono rimasti affascinati perché c'era una analogico e digitale che convivono, quindi c'erano delle postazioni altamente tecnologiche, altre postazioni che erano diciamo quasi antiquate, museo. Però, i nastri esistono ancora, quindi loro hanno visto anche proprio quell'attività estrattiva, no? Dall'archivio si estraggono anche ogni giorno le notizie ANSA che arrivano, le notizie che arrivano dalle varie agenzie. Si scelgono, si estraggono solo delle porzioni per fare il montaggio nella sala di montaggio e per creare da un filmato lungo si va a creare un filmato di pochi di secondi o di pochissimi minuti. Ecco, quindi poi hanno visto lo studio di registrazione che quello magari è anche più affascinante, sono rimasti che da casa sembra molto più grande. In realtà è una stanzetta. Però insomma hanno proprio visto tutto questo lavorio e alla fine questa convergenza, questa grande circolazione e interconnessione tra apparecchiature ma soprattutto tra persone, quindi è un lavoro di squadra, un telegiornale e dove tutti mettono le proprie competenze, la propria competenza specifica ma per fare un unico prodotto. Anche questo a livello di educazione alla cittadinanza è stato una grande sfida, un grande momento di imparare, ecco questo. Ora che il sito del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Eraclea è stato messo in piedi, chiaramente va continuamente mantenuto e credo che anche su questo voi dell'AIART vi impegnerete, non solo come insegnanti. Sì, noi abbiamo preso questo impegno e proprio perché ci crediamo, proprio perché la rete, anche Papa Francesco ne parla molto, questa rete come grande possibilità e come grande occasione di essere positiva e di fare in modo di far vedere anche le cose belle, le esperienze importanti, ma nello stesso tempo stiamo anche curando, abbiamo visto la positività, c'è una main list di insegnanti, gli insegnanti sono anche loro in rete e quindi si comincia ad andare verso a quel lavoro che diventa un lavoro di squadra che viene anche facilitato e velocizzato dalle tecnologie. Allora, ricordo ancora una volta il sito ccrheraclea.provincia.venezia.it. In bocca al lupo a tutti i ragazzi candidati, coloro che poi lavoreranno effettivamente nel Consiglio Comunale dei Ragazzi. Grazie anche al Comune dei Grandi della città di Eraclea, a voi insegnanti, all'AIART per questa bella esperienza. Grazie Sandra Costa, alla prossima. Ringrazio io, arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.